A bordo campo. Sudafrica 2010. Nel cuore del mondiale. Oggi sulla strada verso Sudafrica 2010 parliamo di stadi che sono sempre un po' il cuore di un campionato del mondo, in particolare attesi gli impianti sudafricani perché chiaramente coinvolgono le principali città del paese e anche uno sforzo economico senza precedenti in questo senso. E allora sentiamo subito una scheda che ci aiuta a fare il punto della situazione. Gli impianti che ospiteranno le 64 partite dei Mondiali di Sudafrica 2010 sono 10. Il più grande è il Soccer City Stadium di Johannesburg, con circa 90.000 posti, che ospiterà la gara inaugurale tra Sudafrica e Messico l'11 giugno e la finalissima l'11 luglio. A Johannesburg anche l'Ellis Park, abituale casa del rugby sudafricano, con i suoi 70.000 posti. 40.000 posti invece la capienza degli impianti di Bloemfontein, Polokwane e Rustenburg, i più piccoli. 4 gli stadi nuovi costruiti per Sudafrica 2010. Il Moses Madiba Stadium di Durban, il Green Point Stadium di Città del Capo, il Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth e il Mbombela Stadium di Nelspruit. Il budget iniziale stimato era di 900 milioni di euro, poi innalzato a 1 miliardo e 300 milioni di euro. Ecco quindi gli impianti e i costi degli stadi di Sudafrica 2010, ne parliamo in collegamento in diretta da Londra con Angelo Spampinato, architetto, esperto di impianti sportivi internazionali, lavora per lo studio Arup Sport e sta lavorando tra l'altro a molti progetti per stadi internazionali, uno su tutti il Singapore National Stadium, e ha già lavorato anche presso un altro studio al nuovo stadio delle Alpi della Juventus, autore del libro Stadi del Mondo, Sport e Architettura e anche curatore del sito www.worldstadiums.com. Benvenuto dottor Spampinato a bordo campo. Grazie, buon pomeriggio. Allora dottor Spampinato, c'è un filo rosso che lega tutti questi impianti da Johannesburg a Pretoria, a Città del Capo, a Port Elizabeth? Sì, c'è un'idea che si riflette in quasi tutti gli stadi principali, quelli di nuova progettazione, ed è quella di mettere in evidenza, in risalto, uno degli aspetti specifici della città o dell'intera nazione del Sudafrica. E quello che meglio rappresenta quest'idea è proprio lo stadio principale, il Soccer City Stadium di Johannesburg, che si rifà alla calabash, che è una pentola, una zucca tipica del Sudafrica, ma che un po' vuol rappresentare tutto il continente africano. Ed è un po' la filosofia che sta dietro all'idea del progetto, quella appunto di mettere in evidenza questa caratteristica sudafricana. E allora cominciamo a vederli da vicino questi stadi, partiamo dal Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth. Questo stadio ha il tetto a forma di protea, proprio uno dei simboli del Sudafrica. Ebbene, l'architetto Dominique Bonessy, che ha realizzato il Nelson Mandela Bay Stadium di Port Elizabeth, ci spiega qualche segreto di questo stadio. Nella struttura il tetto è ovviamente la parte più importante. Abbiamo 45 curvature d'acciaio su cui poggiano fogli fatti di alluminio e di teflon, una membrana speciale che le riveste e garantisce l'effetto ondulato della copertura. A seconda dell'ora e dell'intensità della luce, poi, questo rivestimento accentua o attenua il colore bianco del tetto, offrendo così un effetto cromatico davvero particolare. Allora, architetto Spampinato, abbiamo sentito quanto sia bella e l'abbiamo anche visto in realtà questo impianto di Port Elizabeth, quindi anche utilizzo di materiali innovativi nel design e nelle realizzazioni dello stadio postmoderno, in modo tale che non si realizzi solo una struttura funzionale, ma che venga in qualche modo anche esaltato il valore simbolico della struttura, vero? Questo è uno dei punti focali della progettazione degli stadi, soprattutto dei grandi impianti in occasione di manifestazioni sportive, che raccolgono l'attenzione internazionale per alcune settimane, ma che poi sono destinati a rimanere in uso ed essere sia economicamente che dal punto di vista ambientale sostenibili per il futuro e la vita propria dello stadio. E quindi sì, proprio questo è importante, ormai la progettazione di questi grandi impianti punta non solo alla efficienza, alla funzionalità dello stadio, ma anche a rendere la nuova costruzione, che ha un impatto notevole sulla città, un'icona urbana. Eh sì, l'impianto insomma deve rappresentare parte dell'anima della nazione e al tempo stesso inserirsi nel tessuto urbano con una sua naturalezza. Un'altra struttura straordinaria per la sua portata architettonica e che sicuramente stupirà il mondo è il Green Point Stadium di Città del Capo, uno degli impianti appositamente realizzati per la Coppa del Mondo di calcio. Ebbene, Peter Cronje, il capo della comunicazione della municipalità di Città del Capo, ci ha accompagnato dentro il Green Point Stadium e il suo cantiere qualche settimana fa. Questo tetto pesa 4.700 tonnellate ed è attraversato da 7 chilometri e 300 metri di cavi. E a questo impianto hanno lavorato oltre 2.500 operai. Ci troviamo proprio di fronte al porto e nella baia, davanti allo stadio, c'è l'isola di Robben Island. Qui sopra potete vedere i posti al coperto, laggiù il tunnel d'ingresso dei giocatori. E quella è la tribuna VIP. Da qui il presidente della FIFA Blatter e gli altri ospiti vedranno i match. VIP suite where Mr. Blatter and other presidents will watch the games. Eccoci dottor Spampinato, sentivamo appunto le magnificenze del Green Point Stadium. Direi che in questo caso questo impianto si colloca anche in un asse particolare, perché di fronte c'è Robben Island, dietro la Table Mountain. Veramente diventa subito quasi un monumento questo stadio, collocato in quell'area geografica, in quella posizione così particolare. Per ogni progettista è davvero partire con una marcia in più quando si ha la possibilità di progettare in un sito che offre spunti così importanti, è proprio mettere mano subito alla fantasia e alle idee per realizzare qualcosa che, partendo da un sito così importante, riesca ulteriormente a valorizzarlo e a entrare in relazione con gli aspetti caratteristici che già si trovano nel luogo. Finora abbiamo esaltato i punti di forza, no, di questo progetto complessivo che sono gli stadi sudafricani per il Mondiale. Forse invece uno dei punti di debolezza su cui ancora si sta lavorando freneticamente è proprio il collegamento, la connessione fra impianti e città circostante, attraverso mezzi di trasporto, ma anche attraverso un inserimento ad hoc nel tessuto urbano. Da questo punto di vista e alla luce della sua esperienza, come valuta appunto i lavori, le realizzazioni fatte in Sudafrica? Purtroppo sì, questo al momento sembra essere una delle principali note dolenti, perché per quanto si è cercato di portare il sistema infrastrutturale nazionale a livelli adeguati per ospitare al meglio questo grande evento, sembra che ci sia ancora qualche ritardo nella realizzazione e che quindi in occasione della Coppa del Mondo non tutte le nuove infrastrutture saranno ultimate. Questo sarà un problema sì per i numerosi sostenitori che si muoveranno da tutte le parti del mondo e raggiungeranno il paese sudafricano, ma forse soprattutto per gli abitanti locali stessi, perché se da un punto di vista sono state potenziate le infrastrutture nei collegamenti tra le città principali, sede dei mondiali, quello che è rimasto carente è il potenziamento della rete infrastrutturale interna, che era previsto proprio per permettere ai numerosi abitanti sudafricani di raggiungere comodamente e facilmente tutte le varie città sedi degli incontri. L'altro tema sul tavolo, parlando di stadi, è il futuro. Il mondiale durerà un mese, ha richiesto investimenti significativi, ma poi questi impianti resteranno a disposizione della popolazione sudafricana, appunto, e si spera in modo proficuo. Sid Clark, project manager proprio dell'impianto del Soccer City Stadium di Johannesburg, ci racconta quali sono proprio i progetti futuri per quello che è il principale stadio di Sudafrica 2010. Sarà un impianto polifunzionale, non dedicato solo al calcio, ma anche ad altri sport come il rugby, e ospiterà concerti, eventi internazionali. E non sarà circondato da attività commerciali, ma da un'accademia dello sport, da uno spazio museale e da un'area interamente dedicata ad aziende dell'high tech, proprio nella zona che durante durante il mondiale ospiterà il centro TV internazionale. Questa è l'eredità che vogliamo lasciare al Sudafrica. Come sentivamo, dottor Spampinato, quindi che tipo di eredità lascerà Sudafrica 2010 ai sudafricani dal punto di vista dell'impiantistica sportiva? La situazione sudafricana è molto particolare perché a differenza di tante nazioni europee il football, il calcio non è l'unico sport o forse non è lo sport principale in una nazione dove il rugby ha grande importanza così come il cricket. Quello su cui si è puntato in casi analoghi come per esempio per le ultime Olimpiadi di Pechino in Cina, anche questo è un progetto di Arab Sport, si è puntato nel creare proprio un edificio che sia un'icona urbana e che vada al di là della sua funzione sportiva, ma che diventi esso stesso un museo di se stesso, tant'è che lo stadio di Pechino, non molto utilizzato dopo le ultime Olimpiadi, però ha quotidianamente un grande afflusso di spettatori che vanno a visitarlo, a vederlo dal punto di vista strutturale e architettonico, che riesce a garantire anche un ingresso economico tale da rendere quantomeno sostenibile appunto economicamente la struttura stessa. A proposito di futuro, dottor Spampinato, so che lei già sta lavorando agli stadi che ospiteranno i mondiali di Brasile 2016, ebbene ci confessi qual è l'idea che soffierà agli impianti già realizzati per Sudafrica 2010? Sono tantissime buone belle idee in questi stadi e sicuramente mettere in evidenza le caratteristiche di una cultura o di una tradizione locale in occasione di un evento così importante come può essere quello di un campionato del mondo è sicuramente qualcosa che dà molto frutto sia per lo stadio sia per la nazione ma anche per tutti i visitatori che oltre a godere dell'evento sportivo possono conoscere meglio la nazione in cui si recano. Per A Bordo Campo Sudafrica 2010, nel cuore del mondiale di oggi è tutto. Un grazie a Pietro Lacorte in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci come tutti i programmi di Radio 24 dal nostro sito internet www.radio24.it e scriverci alla mail abordocampo@radio24.it. Domani alle 14.30 l'abituale appuntamento con A Bordo Campo, mentre con il nostro speciale viaggio verso Sudafrica 2010 ci ritroviamo sabato prossimo sempre alle 13.15. Un saluto da Dario Ricci.